Beh, vi devo dire che sono un po' emozionato veramente, perché è la prima volta che io mi accingo a fare una trasmissione così lunga, pensate, ben 10 ore, in questo momento sono le 2 e io devo andare avanti fino a mezzanotte. Tra l'altro volevo anche dirvi una cosa, che a un certo punto faremo un giochino, perché abbiamo anche dei premi molto belli da dare a quelli che tra i primi daranno la risposta esatta al quiz che farò loro. Andiamo a svelare, a sfatare una leggenda che aleggiava intorno a Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che lo voleva presente in un popolare telefilm statunitense. Vorrei infatti encomiare la nostra redazione che oggi addirittura si è lanciato in un test attitudinale sulla leggenda metropolitana. Hai capito? Ipotetico. Si ipotezza che Billy Corgan abbia partecipato come fratellino del robot Vicky in Super Vicky. È questa la soluzione esatta? Ma io quasi quasi... Lo dica... Direi di sì. E allora, ipotesi A, quella giusta. Quindi confermiamo che non ha mai fatto il fratellino di Super Vicky. Io sapevo di sì, caro Isacco. Tu ne sei convinto? Al 100% annuisce? E allora è la risposta esatta. Quando si tratta di leggende metropolitane, sicuramente non si è mai detto che ha partecipato a una puntata dei Robinson e che ha fatto un provino per il telefilm La casa nella prateria. Due bei punticini se avete indovinato, altrimenti... A bocca asciutta se avete sbagliato. Se avete sbagliato, però comunque... restate con noi. Restate in contatto. Rocker vi ci facciamo diventare, al massimo a forza. Esatto, continuate a restare in contatto. Vedrete, varrà la pena. Yeah. tra. Chiudila bene. Vai. Bravi, Smashing Pumpkins, Muzzle. Mi è sempre piaciuta sta canzone, non so perché. Ciao, ciao dall'Ariele, eccomi qui al microfono di Rock FM, anche stamane. Ultimo blocco di Pane, Burro, Rock and Roll, puntata 148. Benvenuti ai nuovi amici e alle nuove amiche, quelli che si svegliano solo adesso. Ciao, teneri frugoletti. Fa freddo fuori, ecco, vi do una brutta notizia al volo. Tanto per fare la giornata rock. Ah. Ci deve essere una Genova ventosissima, almeno da quello che intravedo. Dai numerosissimi messaggi. Mi sgridano perché non ho detto il 12 dove siamo. A Firenze, alla Flog. Detto, scusa. Oggi veramente una marea di sms, ma purtroppo per me una marea di mail di gente che vuole il calendario 2008, l'anno della svolta. Ricordo, ariel@radiorockfm.com. Ma bando alle ciance e alle quisquiglie, perché abbiamo un'ultima mezz'ora da affrontare e ovviamente l'affronteremo a testa alta. Eh? Stay tuned in, it's five-way link-up. If you've enjoyed this program, tune to 29314567 megacycles. If you can't find that, drop it. Drop it. I Beatles, così, ogni tanto ci partono. Clash. Guns of Brixton. Cosa ci manca? Il presepe vivente ci manca, sì. Speciale, Frick e Ariel arrotondano lo stipendio di dicembre al Duse Giant Center, tra poco. Commerciale Duse Giant Center vi ricorda che nel reparto bimbi potrete visitare l'inimitabile presepe vivente. Accorrete numerosi. Mi scivola la parrucca. Beh, dai, ti sta bene la treccia bionda. E a te sta bene la tutina rosa, lasciatelo dire. Senti, non riniziamo con sta storia, era l'unica cosa che mi andava bene. O facevo l'angelo donna o facevo il puttino nudo. Vada per il nudo, ma nano no. Shh, potete stare zitti? Gli angeli non parlano nel presepe vivente. Non fare la secchiona. Se ti diamo tanto fastidio, vai da un'altra parte. No, mi hanno detto di star qui ferma e mi hanno messo in mezzo a voi due, e quindi io non mi muovo. Ma dai, Ariel, che fastidio ti dà? Lascia stare l'angioletto. Poi ha ragione lei, dobbiamo far silenzio. Solo che sta parrucca mi scivola e poi il vestito mi stringe. Anche tu devi stare zitto, nasone. Nasone? Senti, piccolo mutante, dimmi tutto quello che ti pare, ma nasone no, e mettiamolo in chiaro. Nasone. Nasone no. Aia! Ehi, cosa mi tiri la barba, ranocchietto? Perché gli angeli non hanno la barba e io voglio due angeli veri qui con me, non voi due che puzzate pure. No, no, no, dai, dai, dai, non piangere, dai, angelino. No, dai, cosa succede, dai, non qui? Piangere, che vengono a sgridarci. No, niente, caporeparto, la bambina è allergica alla stalla, forse è meglio se l'allontanate. Magari sente la mancanza della mamma. No, non è vero, è colpa loro e della loro puzza. Non è possibile. Ogni volta che ci siete voi due qua succede sempre qualcosa. Ma in agenzia allora fanno veramente apposta. Ma che agenzia è? Qua mi vogliono mandare in rovina. Anzi, adesso vado a chiamarli. Frick, però è vero che c'è puzza. Beh, un pochino. Però io stavolta non c'entro, eh. Non c'entro niente stavolta. Ma da che puzza così allora? E non digerisco lo yogurt. Direttore? There's a killer on the loose, baby. Thin Lizzy. Allora, ho un'amica al telefono. La genesi di questa telefonata è troppo lunga da spiegare. È troppo poco il tempo a mia disposizione prima di terminare la trasmissione di oggi, ma valeva la pena rischiare. Questo è sempre Pane, Burro e Rock and Roll, e ci occupiamo del problema di essere rock ai giorni d'oggi, ma soprattutto delle problematiche legate al Natale. Allora, intanto do il benvenuto a Vale, benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao Vale. Ciao, grazie, ciao ciao. Allora, spiego velocemente. Io Vale l'ho chiamata solo e unicamente perché mi manda da un paio di giorni dei messaggi, esatto, nei quali si lamenta che a Natale poverina dovrà andare ai Caraibi. E io, Vale, volevo solo approfittarne per farti ragionare, cioè va bene lamentarsi, ma vai ai Caraibi, cioè dico. No? Vado ai Caraibi con la mamma, il papà, il fratellino. Ho capito. A fare Natale, Capodanno. Ho lasciamo capito. Qua gli amici, il gruppo, la band. Ho capito, ma sempre ai Caraibi vai. Vado, cioè, al mare, mi abbronzerò io che sono sempre così bianca. Quindi tu dici no, non ci trovi proprio nulla di positivo. No, sono contenta che vado là con la famiglia, però di fatto il divertimento rimane tutto qua. Quindi a te sarebbe piaciuto fare il cenone a Milano? No, il Capodanno più che altro. Capodanno. Ci sta di fare Natale con la famiglia, è bellissimo, ok. Però magari tornare a casa il 30. Tu dici. Solo che andare via per una settimana, dai. Intanto fatti un bagno a Caraibi alla facciaccia nostra. Lo farò alla facciaccia tua. Succede qua, questo doveva essere il clou della telefonata, va bene. Scopro dell'altro però. Vale è un insegnante. Insegna a dei bambini di una scuola elementare milanese che non cito per non farti fare una figuraccia, Vale. Ok, anche perché non lo sai, lo sanno tutti i miei amici che insegno. Sì. Anche i genitori. Vale mi risponde al telefono e dice: no, scusa, sono in classe, sto insegnando. Quindi in questo momento lei ha di fronte i bambini. Certo, ne ho 25 qua davanti. Allora, innanzitutto salutiamo i bambini. Ciao bambini! Ciao, vi stanno salutando. Ok. Seconda cosa, scopro, cioè dobbiamo fare subito un gemellaggio, perché quindi anche tu insegni inglese. Esatto, insegni inglese, musica e arte. Fantastica. E usi le canzoni rock per insegnare ai bambini di prima elementare l'inglese. No, prima elementare magari no, però siamo sulla quarta e la quinta, sì. Abbiamo anche una rubrica nel giornalino della scuola che si chiama Rock Corner. Rock Corner. E a quelli di prima elementare cosa gli insegni? E quelli di prima elementare, vabbè, alcune tipo i Wanna Rock, quelle che hanno i ritornelli molto ritmati. No, qui scatta il gemellaggio perché abbiamo anche Deborah, un'insegnante di Lucca che fa la stessa cosa, che salutiamo, che oggi è malata. Quindi no, prima o poi ci risentiamo, io proporrei dei compiti in classe in diretta. Va bene, ok. Si può fare. Intanto mi spieghi questi poveri bambini che ti guardano parlare al telefono con una radio, cosa possano pensare di te? Non vedono l'ora di parlarti perché mi stanno guardando e dicono allora con le manine. E cosa vogliono dire? Ne, passamene qua. Boh, fate te ne passo qualcuno, te ne passo qualcuno, sì, di sveglio. Prego, vai. Sì, di vale, sveglio, sì. Grazie. Vai. Ciao Vale. Ciao. Ciao Vale, benvenuta a Rock FM, tutto bene? Non ho capito. Come non ho capito? Perché non hai capito cosa hai detto. Dai, passamela, parlo piano. Te ne passo un maschietto. Sì, uno sveglio, come... Ciao. Ciao, chi sei? Riccardo. Ciao Riccardo, io sono l'Ariele. Tutto bene? Sì. Ma cosa ti insegna Vale a scuola? L'inglese, così possiamo andare in Inghilterra. Esatto. La musica per fare i concerti. Perché tu vorresti fare i concerti come la tua insegnante? No. Tu non li vuoi fare? No. Non ti piacerebbe suonare la chitarra? No, la batteria sì. La batteria sì? E gliel'hai chiesti? L'hai chiesto, Gesù Bambino, la batteria? Per Natale? Sì. Gliel'hai chiesta? Speriamo che arriva. Però stai attento che con la batteria fai un casino incredibile. Ok. Perché poi i vicini si arrabbiano. Ok. Non devi farle arrabbiare, Riccardo. Ok, ciao. Ciao, buona giornata, Riccardo. Pronto? Era un filo spaventato, secondo me. No, non è spaventato. Era così normale. Sì, senti, sì, dimmi. Io non ho parole, Vale. Sono sicuro che ci risentiremo, questo va sì. Bene. Perché dobbiamo fare... Madonna, non ci posso pensare. Spegni il telefono, che sei un insegnante! Ciao. Non posso, ciao. Salutameli tutti, non ciao. Non vuoi il jingle bell? Sì, sì, sì, lo voglio. Lo voglio. Pronti? Pronti? Buon Natale. Ciao, buon Natale per Oroca. Tutti. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loo, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loo, bop, bam, boom. Hit it. Bamboom, I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loo, bop, bop, bamboom. Fare così, Frick, no, una trasmissione, no, non se ne può più, no. Allegria, ritmo, Ariel, ritmo. Ariel, stasera, no, stasera il bimbo, ma chi bimbo, a Francesco, la belva, zitto che ci sente che viene di qua, e di là belva. Con spadino buono buono, la belva, te la porti a casa, piccolo Francesco, tu, no, no, no, guarda, io non ce la faccio, no, adesso, oddio, no, eccolo qui, ciao Francesco, ciao Francesco, quando si sente che si parla di te, tu arrivi, ma senti, ma questo coso qua che sta davanti, che cazzo è? E il microfono, non toccarlo, che costa anche un sacco, al microfono, sì, non toccarlo. A me sembra una cosa quello che usano i signorini che mi ha fatto del pammio nei filmini. No, ma no, senti, Francesco, no, per favore. No, no, no, questi sono i filmini pornografici che ti costringe a vedere, ti costringe papà, vedere, sì, tuo papà. No, no, no. Che no, ti vuole rendere maschio, uomo. È semplicemente un microfono. Ma a me non mi piacciono, poi ci sta un'altra cosa, a me non mi piace qua dentro. Puoi dirlo, puoi non dirlo. Dillo a bassa voce. Dillo a bassa voce. Oggi io ho conosciuto uno. Sì. Uno che parla della progressive e continua a dire dischi, sa tutto a memoria. Mac Mix. Mox. Mox. Mox Cristadone. Un rompicoglione. No, no, no, un simpatico collega. È un collega preparato, è il più preparato. Ma capito, ma non smette di parlare, ma no, io sto a metà. E questo, no, mi dice, perché? No, perché devi sapere che il disco è del 70, ma che cazzo me frega, io 40 anni fa manco ero una contente, cazzo. Non c'è, allora, ma stai qua la settimana di Natale, però non devi dire queste cose al microfono, per favore. È cultura, è cultura, Francesco, è importante. Scusa, Frick. Il momento di scusa, prego. Prego. A Frick. Ma te interrompe i coglioni. No. Cioè, ma no, non è usare simpatico questi termini e non parlare male dei nostri colto colleghi. È un giovane colto che spiega le cose. Oh, è il pranzo di Rock FM con la grande musica rock. E beh, insomma, tu vorrai sapere qualcosa dei Motley Crue, no? Sì, che so? Però no, da rompicoglioni. No, basta. Anche perché in modo incluso, no, metal. Sì, esatto. Non rompicoglioni. No, va bene, no, però, ho capito. Usciamo, però, da questo imbarazzo, vabbè, per favore, usciamo, Francesco, anche da questo cul tra l'altro sa. Nel temino non scrivo. Ma no, ma sai chi me l'ha detto a me? Che cosa? Cioè, mi ha dato conferma. Io sta parola non la conoscevo. Con quale parola? Rompicoglioni. Allora, però mo che mi stavo rompendo i coglioni, sì? Arriva Claudia e guarda e mi fa mazza che rompi coglioni questo. No, no, no. Ma che non si può dire, mo? Guarda, le cose che ti insegna Claudia veramente non le puoi rividire. Ci lasci fare la trasmissione. Va bene. Senza perdere, veramente. Vai di là da Spadino, che tanto stasera stai da Frick, eh? Buono. Ancora? Posso ancora saltare sulle tende? È certo stasera che puoi. Posso intasarci adesso? È certo che puoi, devi, è casa tua. Amici, io stasera dormo al parco. Lasciamo stare. Al parco. Sì, ho deciso che dormo, freddo, lo so, ma ho un Fritte capace. Porta la coperta infuocata. Grazie, volentieri. La coperta te la porto. Volentieri, immaginavo che non potesse essere niente di meno. Grazie. Ho un... Gli lasci le chiavi allora? No, veramente le chiavi... La macchina, sì, buttate, le chiavi della macchina! Le ho buttate in un tombino, anche quelle dell'auto. Abbiamo una trasmissione da fare, per favore, seri! Ciao, pane burro! Giornata, ragazzi! 9:03, fatta, andata anche per quest'oggi. Archiviamo la puntata 148 con Shut Down and Flames, AC/DC. Ah, le insegnanti rock pure. Mi dissocio da tutto quello detto da Francè e con me si dissocia Freak e tutta la redazione. Ufficialmente facciamo sapere che il nostro programma preferito di Rock FM è Easy Rider. Ho diviso anni il microfono con Mox Cristadoro, quindi ci tengo a far sapere che lo stesso Mox avrà apprezzato l'ironia di questa trasmissione, speriamo, ecco. Va bene, è andata, ragazzi, che puntata. La ritrovate se volete risentirla su RadioRockFM.com in streaming oppure in podcast o sul nostro spazio MySpace/PaneBurroFM, l'unico programma ascoltato dalle insegnanti rock. Non ce la possiamo fare, amici. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock ritornerà domattina. Pane, burro e rock and roll, come al solito dalle 7 alle 9 su Rock FM. Dove se no? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. L'appuntamento allora è fissato per domani alle 7, belli puntuali, belli precisi. Velocissimamente la marea di appuntamenti che devo ricordare, soprattutto per chi è interessato al calendario 2008, l'anno della svolta. Vi do due appuntamenti dove ci possiamo trovare fisicamente, che è la cosa migliore da fare. Venerdì sera con Max De Rio sarò all'Ippodromo a Firenze, quindi amici toscani, volendoci trovate lì. Per gli amici di Milano, sabato sera saremo all'Alcatraz, quindi distribuiremo il calendario Davvero Rock per chi fosse interessato. Non calendario, calendario 2008, ho sbagliato. Chi fosse interessato. Ho dei punti di contatto con la città di Livorno e con la città di Pisa. Quindi se siete interessati scrivetemi a daria@radiorockfm.com e in un modo o nell'altro, se siete interessati a questo calendario, prima o poi, nelle vostre mani, ci arriverà. Più che una promessa, non mi viene la battuta. Aspetta, più che una promessa, dai ditemelo. È un... non mi viene. Vi lascio con Marco Garavelli. Come si dice con una cosa brutta, capito? Più che una promessa è... A volte mi sento come se fossi da solo in questi studi, nessuno mi dà una mano. È un... Vabbè, no, ma mi deve venire, aspetta. Più che una promessa... È una minaccia! Mi è venuto.